Salve a tutti gli ascoltatori di Radio Big World e benvenuti alla puntata numero 18 di A Tavola con Fabiola. Questa è Radio Big World e io sono Fabiola. La ricetta di oggi è patate con le mandorle. Ingredienti per 4 persone: 500 g di patate, 2 uova, 70 g di mandorle pelate, 3 cucchiai di farina bianca, 5 cucchiai di olio di mais, 2 fette di pane casareccio ammorbidite nel brodo vegetale, 1 cipolla, 1 spicchio d'aglio, 250 ml di acqua calda, sale quanto basta. Preparazione: sbucciate le patate, tagliatele a fette, metteteli in una terrina coperte con acqua fredda. Sbattete le uova con poco sale. Scolate e asciugate le patate. Passatele nella farina, poi nell'uovo e infine ancora nella farina. Scaldate in una padella l'olio. Fate rosolare rapidamente le patate da ambo le parti. Sgocciolate con la paletta e disponete in una pirofila unta. Conservate nella padella il fondo di cottura. Strizzate e sbriciolate il pane. Tritate la cipolla e l'aglio, le mandorle e fate rosolare tutto nella stessa padella, aggiungendo, se occorre, ancora un po' di olio. Mescolate bene, fin quando l'impasto risulterà omogeneo e leggermente dorato. Stendete dunque l'impasto sulle patate nella pirofila e versatevi sopra l'acqua calda. Mettete la pirofila in forno per 40 minuti a 200 gradi. I vini consigliati: Freisa d'Asti a 17 gradi, Orvieto classico a 11 gradi. Buon appetito! Questa era la ricetta numero 18 di A Tavola con Fabiola. Io sono Fabiola e questa era Radio Big World. Vi do appuntamento alla prossima ricetta.